Comunque, ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare tre appunti. Primo, non va applicato. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate? Eh? Arrivederci. Roba da leccarsi i baffi.